Dagli incontri nascono sempre nuovi stimoli, nuove idee. Ma quando ad incontrarsi sono dei musicisti, ecco che nasce qualcosa di profondamente diverso. Qualcosa che rimane e aggiunge una nuova nota sul pentagramma. L'esperienza dei magnifici e di destini incrociati in un nuovo programma, nel quale, attraverso i loro incontri, i grandi della musica danno vita a sorprendenti connessioni per creare nuovi mondi musicali. Radio 24 presenta I Magnifici Destini, un programma di Giacomo Zito. Le canzoni hanno un potere ipnotico e rivelatore. Ci piacciono perché la combinazione di musica e parole ci trasmette qualcosa. E spesso si spinge oltre, dicendoci molto. Per non parlare di quei rari, rarissimi casi, ma esistono e ognuno di noi lo sa, in cui la canzone dice tutto, diventando la perfetta sintesi di un pensiero, di un'emozione, di una storia. È un potere importante. E allo stesso tempo è importante che questo potere ci sia. E non vale solo per i contenuti, vale anche per chi questi contenuti si è preso la briga di metterli giù. Prendete la canzone che stiamo ascoltando. Magari non tutti la conoscono, ma chiunque la ascolti in poco tempo si potrebbe fare un'idea della voce che la canta. Una voce malinconica, ma non triste. Una voce timida anche, ma che non si vergogna di dire quello che pensa. Una voce giovane, certo non è quella di un ragazzo, forse potrebbe essere quella di un uomo, o forse quella di uno che ancora uomo non è, pur essendoci molto vicino, prima di essere un uomo. Il segreto che forse avevo in parte dimenticato sta proprio nel fare in modo che per ogni persona che l'ascolta una canzone abbia un significato diverso potenzialmente, che sia profondo, che sia leggero, che sia intimo, sia personale o che sia invece generalizzato e generalizzante. Questo non conta quasi, anzi più dimensioni diverse coesistono meglio è. Oggi i Magnifici Destini si siede su una comoda poltrona un po' sgualcita per fare quattro chiacchiere e ascoltare della buona musica. Sono abitudini che non andrebbero mai perse, soprattutto quando ne vale la pena. Il protagonista di oggi è una voce che non si è mai accontentata di sapere cantare e di sapere scrivere canzoni, ma ha sempre cercato l'occasione di parlare e riflettere ad alta voce, impuntandosi quando ne ha sentito l'esigenza e ironizzando laddove ogni speranza sembrava perduta. Non si tratta di ascoltare per capire se ci si trova d'accordo oppure no, si tratta di ascoltare chi ha qualcosa da dire e lo fa attraverso la musica. Daniele Silvestri. Non devi giustificarti, non devi sforzarti, non c'è alcun bisogno che tu sia diversa. Non mi passa neanche per la testa di assillarti con i miei perché. Certo, forse inizialmente ti sarò sembrato un poco preoccupato, ma non era niente. E se ora non ti scoccia, credo che una doccia mi rilasserà. Ascoltare Daniele Silvestri talvolta è un vero rompicapo. Cominci a sentire un brano che sembra parlare di cose serie e subito devi fare i conti con un ritornello che non è altro che una presa in giro. È un messaggio a modo suo. Un modo per preparare gli ascoltatori ad affrontare un viaggio che non si limita alla superficie ma va alla ricerca di profondità per poi riemergere improvvisamente e finire con un bello schizzo d'acqua che esce dalla bocca. Poi personalmente non distingo neanche tanto quando scrivo canzoni tra appunto la dimensione magari più privata e quella più pubblica, tra quello che è impegno e quello che invece è sentimento e intimità. Non c'è un confine preciso, perché nella vita non c'è. Alla fine anche con la persona che ami ti ritrovi magari a guardare il mondo esterno e viceversa, dalla rabbia che magari ti viene o dalla gioia che ti viene da quello che succede fuori, qualcosa succede anche nel tuo rapporto di coppia o comunque nei tuoi sentimenti più intimi, quindi non c'è un vero confine mai. La notte io non dormo e se dormo sogno, parlo e poi mi sveglio nelle orecchie l'eco di un mio urlo, cose da dimenticare, frasi da dimenticare. È evidente che un segreto c'è, un segreto ce l'hanno tutti. Quello di Daniele è una casa in cui campeggiano scaffali pieni di libri e una serie di fogli sparsi qua e là. tutta roba di papà Alberto, che di lavoro scrive e si cimenta col romanzo, con il teatro e col cinema, prima di fermarsi dietro le quinte del Costanzo Show per diventarne autore. Ma non ci sono solo una mola infinita di pagine a vegliare sul ragazzo, perché tutto quello scibile potrebbe inquinare l'atmosfera, rendendola grigia, pesante. C'è anche un suono allegro e pimpante che ogni tanto irrompe nel silenzio delle stanze, creando un piacevole diversivo. È quello della voce della mamma che, prima della nascita del figlio, cantava jazz nei locali a Bologna. È finita a dirigere un'agenzia di viaggi, ma ogni tanto non resiste, mette su qualche disco e comincia ad andargli dietro. Parole, musica, immaginazione. C'è molto materiale a cui attingere, molte possibilità di rimanere folgorati da qualche colpo di fulmine. Il teatro è realmente, più che il cinema, ed è un amore profondo, quasi come quello per la musica. Vorrei dire perfino di più, in parte perché anche ho sempre scritto, anche quando ho scritto canzoni pensandole per un disco, ho sempre scritto immaginandomi come minimo un tessuto drammaturgico, se non proprio un film nella mia testa, quindi ho sempre unito le due cose, anche solo dentro di me. I primi lavori nella mia vita che ho fatto, pagati, retribuiti, quando avevo 16 anni, erano sonorizzazioni, colonne sonore, di piccole cose. A questo punto l'orizzonte comincia a essere più chiaro. Daniele ha un cervello che elabora e che si guarda intorno. In casa soffia una certa brezza che permette di lasciarsi trasportare. E Roma, la città dove nasce, lascerà il segno, perché Roma non può non lasciare il segno. Ora manca solo una cosa. Non è stata proprio una decisione vera e propria. Mi sono ritrovato a partire per un viaggio senza avere i soldi, per averli distribuiti tra le persone con cui comunque già iniziavo a suonare, così, perché io ne avevo un po', gli altri noi ce li siamo divisi. Io sono riuscito con quelli che avevo a pagarmi il biglietto dell'Interrail, che era un'istituzione veramente meravigliosa. E quindi sapevo di poter almeno viaggiare, ma non potevo né mangiare né dormire. Mi sono portato la chitarra come unico modo per mezzo di sostentamento. Però ero molto molto spaventato dall'idea. E i primi 3 giorni di quel viaggio non ho mangiato né dormito, perché non avevo il coraggio. Sono arrivato, credo, a Monaco, in Germania, e lì mi sono seduto accanto a uno che suonava blues e ho piano piano timidamente chiesto se potevo accompagnarlo. Ecco, ci siamo. Mancava solo il viaggio. Un viaggio un po' diverso dagli altri, una specie di viaggio di Ulisse in breve, in cui convivono spostamenti fisici e percorsi personali. E così quello che sbuca dal tunnel al ritorno è un ragazzo diverso da quello che era partito. È cambiato, ma non è stravolto da chissà quale esperienza, ha solo uno sguardo più concentrato. Semplicemente comincia a capire quello che vuole. Vorrei che tu partissi con un tempo house che iniziasse con via e che finisse con ciao. Nessun bisogno di una melodia, devi solo ricordarti di partire quando dico via. Adesso ci vorrebbero le note basse, sono quelle che trascinano e che spaccano le casse. Niente di difficile, fai solo così. La, la, sol, si. Se avessi una bacchetta magica, in cosa vorresti trasformarti? No, in realtà no, questo non mi piacerebbe, perché trasformarmi in qualcos'altro significherebbe non continuare la sfida che ho iniziato, quella che fanno tutti, che se uno ha degli obiettivi e dei desideri, sto facendo sto gioco, è come se mi dicessero: se vuoi puoi cambiare gioco, preferisco prima vedere questo come va a finire. Non c'è verso, garantito. Non c'è verso di cogliere Daniele in fallo, neppure risentendolo nelle prime interviste. Lui la testa ce l'ha sempre messa. E lo ha fatto dall'inizio, da quando decide di buttarsi nella sua avventura. La musica italiana di un certo tipo in quel momento è ferma ai De Gregori, ai Dalla, ai De André, e non se ne riesce a venire fuori. Certo, stiamo parlando di mostri sacri, ma il punto è che nessuno vuole fare lo sgambetto a qualcuno. Si cerca solo di ritagliarsi uno spazio tutto qui, uno spazio dove poter provare. E uno spazio, a ben vedere, c'è. Così da 5 anni vivo consumando un'incrollabile fiducia nel futuro. Con un sorriso vedi che sto conciliando al vago senso che ho di averlo preso in culo. Però ti dicono, le donne sono tante, come i negroni, no, milioni di miliardi. Poi scusa, lei non era mica entusiasmante, va là che adesso beato te potrei rifarti. Allora spiegami perché mi tormenti, perché non ha più senso quello che ho. Com'è che ancora adesso rischio l'infarto se vedo un Y, un 10 bordo? Si chiama Il Locale e si trova in Vicolo del Fico 3 a Roma. Il Locale, un nome semplice che non lascia spazio a interpretazioni diverse, un posto dove la gente va alla sera per divertirsi, fare 4 chiacchiere in compagnia e ascoltare un po' di musica. E il palco del locale è il luogo ideale dove poter cominciare, non solo perché è un ottimo spazio per i talenti emergenti, ma anche perché gli stessi talenti non si limitano alla propria esibizione, ma imparano a conoscersi tra di loro, a scambiarsi idee e progetti, a stringere collaborazione. È così che il locale lancerà la sua sfida al panorama musicale italiano, coltivando talenti come Daniele, ma anche Max Gazzè, Alex Britti, Niccolò Fabi, mettendosi a disposizione come megafono per le loro voci. C'è una cosa che mi viene in mente, ho sentito dire una volta una cosa bellissima, B.B. King, famoso chitarrista blues, di fatto quando suona usa solo la pentatonica, che è questa scala, per chi non mastica musica, se vogliamo molto semplice. Basica. No? Esatto, basica, con la quale puoi suonare tutto quello che vuoi. E una volta un mio amico che ha degli allievi di chitarra disse al suo allievo: vedi, B.B. King usa la stessa pentatonica che usiamo io e te, ma come mai lui è B.B. King e noi non siamo nessuno? Che è una cosa importante, quindi anche se suoni poco, suoni meno, c'è un modo di un peso nelle note che fanno di un certo fanno musicista, la differenza. Esatto, una personalità pazzesca, e di un altro invece una... Se non li avete riconosciuti, ve lo diciamo noi. Si chiamano Nicola Riccardo Fasani, detto Faso, e Davide Luca Civaschi, detto Cesareo, basso e chitarra pruriginosi al servizio della band più surreale d'Italia, Elio e le Storie Tese. Nonostante un'appartenenza musicale e un'indole molto particolari, i due strumentisti non si fanno mancare talvolta il piacere di mettere al servizio di altri le loro innegabili capacità. Così succede per i primi due album di Daniele, e i risultati, come prevedibile, arrivano presto. Le cose che abbiamo in comune sono facilissime da individuare. Ci piace la musica ad alto volume, fin quanto lo stereo la può sopportare. Ci piace Daniele, Battisti, Lorenzo, le urla di Prince, i Police. Mettiamo un CD prima di addormentarci, e il nostro risveglio deve essere lì. Perché quando io dormo, tu dormi, quando io parlo, tu parli. Chissà quante cose in comune hanno Faso, Cesareo e Daniele. Di certo hanno un buon feeling, visto che il risultato della loro collaborazione trova consensi. Merito della poliedricità di Faso, che alterna ditate pesanti e pizzicotti vellutati sul suo basso. Merito dell'efficacia dei riff di Cesareo alle prese con la sua Ibanez, una chitarra costruita appositamente per lui, con il modello che ne riporta il nome. E merito di Daniele, naturalmente, che ci mette la qualità. Il risultato ha la freschezza dell'esordio e la solidità della piccola ma importante certezza. C'è un po' di tutto a livello musicale, c'è il pop, l'elettronica e la vena cantautorale. Ci sono il funk e pure il free jazz punk inglese, come direbbe Battiato. C'è voglia di divertirsi, ma anche di misurarsi. Ma non c'è confusione, e questo è un ottimo indizio. Però, insomma, sono una serie di cose insieme. Sicuramente il fatto di avere voglia per motivi miei, ma anche per motivi, secondo me, abbastanza oggettivi, di fare qualcosa di diverso, no? Come se ci fosse un po' il bisogno di reinventarsi questo mestiere, quello di scrivere canzoni fondamentalmente, ma anche di diffonderle, cioè del modo in cui si diffonde. Certo, Daniele ha scelto un modo originale per cominciare. Vincere due volte il premio Tenco e il premio speciale di Sanremo per il testo al primo colpo, il tutto nel giro di un paio d'anni, è certamente un evento molto raro, e potrebbe anche essere un peso se uno non riesce a scrollarsi di dosso la pressione che tutto questo comporta. La soluzione per il cantante romano risulta più efficace di quanto si possa pensare: fare affidamento sugli amici. Certo, se gli stessi amici poi sono dei grandi musicisti, allora la cosa è più facile. La fila è lunga e io non posso aspettare. Dico, prego, prego, faccia. Lo so, una giornataccia, la pioggia, il traffico e le scadenze del mese. Diamoci del tu, mi dice lei, io mi chiamo Samantha. Le do la mano e intanto penso, Madonna quanta. Non lo so, un pregio che spero di avere è l'ironia. Però so anche che può essere un difetto certe volte, finché autoironia, o comunque un'ironia che serve a vedere le cose da un po' più lontano, a ridere di cose che normalmente ci fanno soffrire, è utile, soprattutto se può suggerire a me e agli altri modi diversi di pensare le cose. Ora, questo ragazzo romano con lo sguardo serio e sornione, che parla così attentamente delle cose, comincia davvero a destare curiosità. Forse qualcuno lo attende al varco. Forse lui stesso si sente al varco, perché di sicuro il prossimo lavoro, il prossimo album, sarà importante per capire se vale la pena tenerlo in considerazione e magari appiccicargli un'etichetta. Oppure per vedere se è stato un bluff, un trucco, un gioco d'azzardo, un numero che è sbucato improvvisamente dal panno verde. Daniele Silvestri! Ciao, ciao, ciao, accomodatevi, accomodatevi, accomodatevi, ragazzi. Allora, Daniele. Va, che ovazione. Allora, Daniele, intanto è la seconda volta che vieni qua a trovarci. Vedi che oggi sono munito di cartelletta, qui praticamente c'è tutta la tua vita. Vedi, guarda, grande successo sta avendo il tuo ultimo disco intitolato Il Dado. Questa è la seconda volta che ci vieni a trovare, già te l'avevo detto io, senza bisogno di leggere. Prima ci avevi cantato Call Me, mentre questa volta è una canzone molto bella che si intitola Coiba, che tra l'altro ho sentito prima e ti ho detto che bella sta canzone, molto bella perché ha queste atmosfere. Come sono queste atmosfere? Un po' cubana. La carta vincente viene giocata nell'ottobre del 1996, dopo un passaggio veloce al cinema per musicare il film di Giuseppe Piccioni Cuori al Verde. Si chiama Il Dado ed è l'album che toglie definitivamente le ombre residue che ancora avvolgono il giovane cantante romano. Daniele Silvestri fa davvero sul serio. Tutto il resto sono discorsi superflui. Signore Dio, aiuta questa gente, perché oggi l'uomo che viveva qui e conosco anch'io è scomparso prematuramente. Tu aggiungi tu quel che ti va, banalità, banalità, e appena puoi vai via di là, sparendo nell'oscurità. Il Dado in un certo modo consacra Daniele, lo consacra al pubblico per via del suo stile intrigante, unico perlomeno in Italia, e coraggioso. Le canzoni, in cui oltre all'italiano fanno capolino anche il francese e l'inglese che a tratti si mescolano, riescono a entrare nel cuore degli ascoltatori grazie a un doppio CD che unisce nostalgia rock, pulsioni moderne e indizi sparsi di un'indole impegnata. Nei testi Daniele si diverte a esplorare le emozioni umane e lo fa prendendosi gioco della realtà per poi ritornare improvvisamente serio. Ci sono viaggi, ricordi, pensieri profondi e bisogni corporali, manifesti ideologici e pura energia ormonale. E anche omaggi all'America Latina, all'Europa e naturalmente alla nostra penisola con la ciliegina di una canzone cartolina spedita dalla Puglia che si srotola in un ritmo lento e inesorabile. Fa molto caldo in questa macchina a quest'ora di notte, con le palpebre pesanti come ossa rotte. Se potessi almeno aprire un po' di più il finestrino, ma c'è Gianluca che dorme, non mi pare carino. Comunque arriva appena un timido respiro di mare, come un odore di scogli, di musche e di sale. Questa è l'Euca che ci chiama dal retrovisore. Siamo partiti da poco, già mi sembrano. Il Dado consacra anche Daniele a se stesso. Gli dà quella consapevolezza che probabilmente in cuor suo già aveva, ma che la timidezza e l'umiltà gli impedivano di mettere a fuoco. Il rischio è stato grosso, ma è stato voluto, e questa è una considerazione di non poco conto. Grazie a questo album, Silvestri riesce a ottenere tutto quello che voleva. Il pubblico si salda intorno a lui, seguendolo nei suoi percorsi un po' alternativi, mentre il CD passa di mano in mano. Il suo stile non viene abbandonato in previsione di uno sbarco nella massa, ma viene ribadito con forza, finendo per tatuarsi definitivamente sul suo corpo. Anche l'ideologia è rimasta la stessa, e questo è un motivo di orgoglio. E se qualcuno non è d'accordo, pazienza, ci sarà sempre un'altra traccia che parla d'amore. I magnifici destini. Quello del Dado è stato un altro momento particolare in cui sicuramente si sono incrociate delle cose giuste, tra cui il rapporto con Max Gazzè in quel periodo, e poi perché c'era in quel momento delle cose, dei pezzi, delle canzoni che andavano proprio vissute suonando in diretta. Siamo in viaggio insieme a Daniele Silvestri, timido e ironico musicista romano che si è messo a girare l'Italia da un po' per portare in giro la sua ultima fatica, Il Dado. L'album mantiene tutte le promesse che Daniele aveva lanciato ai suoi esordi, con i premi che ne erano conseguiti. Intrattiene, fa pensare, con tutta una serie infinita di delizie sonore che ne impreziosiscono il contenuto. Ora che le cose si sono fatte serie, ora che bisogna andare in giro con un tour, Daniele, come al solito, decide di mettersi in macchina con un altro amico fidato. Uno di quelli che bazzicava insieme a lui il locale di Vicolo del Fico. Uno che la pensa più o meno come lui, e cioè che mettersi lì e parlare attraverso la musica potrebbe avere un senso. Un destino magnifico e familiare. Una musica può fare cantare li li li, la la la maggiore. Una musica può fare. Massimiliano Gazzè è diventato Max solo a 24 anni, quando è ritornato in Italia. Prima ha vissuto in Belgio, dove ha trascorso gran parte dell'infanzia, per poi trasferirsi nel sud della Francia, in compagnia della sua band per suonare acid jazz. Sì, perché Massimiliano la musica ha iniziato a frequentarla da piccolissimo, grazie a un pianoforte, per poi virare improvvisamente verso il basso elettrico e inseguire un mare di sperimentazioni. Max non è certo uno che si accontenta. Di solito il bassista si limita a tenere alto morale e ritmo delle canzoni, lui invece vuole di più e allora arrangia, scrive, canta persino. Sì, di fatto è complicato se non più che altro per l'aspetto geometrico. Infatti la chitarra bene o male ha gli accordi, ma il basso pure, però a volte ci sono dei sincronismi che devi abituarti un po' a gestire delle cose, delle posizioni. Non è che ho preparato nulla per vedere questa cosa, però ci sono delle cose che rimangono un po' difficili da incastrare, ma poi con un po' di abitudine lo fai. La stessa umiltà che contraddistingue Daniele, la stessa voglia di smorzare i toni quando si parla di certe cose. Il destino in questo caso diventa magnifico con grande naturalezza. È il risultato di un'amicizia che dura da qualche anno, cominciata in quella specie di vivaio della canzone italiana che è stato il locale di Roma. A unirli, oltre al mestiere, c'è un retroterra culturale molto simile e il desiderio di intraprendere un percorso cercando di dare il meno possibile le cose per scontate, provocando lo scontro se necessario, o comunque mantenendo un livello di discussione piuttosto movimentato, per poi improvvisamente scherzare, sorridere. E quando arriva il momento di schierarsi, non c'è neanche la più piccola ombra di dubbio. Come si dice in questi casi, uniti si vince. C'è in un'isola lontana una favola cubana che vorrei tu conoscessi almeno un po'. C'è un'ipotesi migliore per cui battersi e morire e non credere a chi dice di no, perché c'è. Trovo che ci sia qualcosa di affascinante quasi in ogni posto in cui vado. Ci sono dei posti in cui riesci ad andare via perché sai che ci torni. Uno di questi è Cuba, lo dico, cioè, sapendo di dire una cosa anche banale. Coiba è una delle canzoni più apprezzate dal pubblico fedele di Daniele. Una di quelle che viene richiesta a gran voce durante i concerti. È un manifesto a modo suo. E pur toccando un argomento scomodo come Che Guevara e la rivoluzione cubana, riesce ad andare oltre grazie a un testo e a una musica che ti tirano dentro. Pensare che era stata un'idea di papà Alberto quella di giocare sul Che, nome del guerriero, e sul Che, verbo italiano. Ecco, è proprio questo forse il segreto di Daniele, il clima di scambio e apertura in cui è vissuto. In occasione del tuo 18° compleanno, tuo padre ti ha regalato una frase che è questa, bellissima. Quando entro in casa e sento musica, so che ci sei, perché sei fatto di musica. Tua madre era di jazz, io teatro e penna. Tua madre è ancora jazz, io sono ancora penna. Spero che tu resti musica ogni giorno. Grazie papà. Poi il segreto di questa frase non è tanto musica, teatro, jazz, è l'importanza di avere una passione, di avere qualcosa che significa svegliarsi la mattina col sorriso perché hai un obiettivo, una voglia. E quello è la medicina da qualsiasi forma di stress o di depressione o di abbrutimento. Il tour insieme a Gazzè è una specie di festa. Il concetto di live per Daniele è sempre stato questo in fondo, amici, musica, divertimento e qualche riflessione. Si parla e si canta molto. Il giro durerà un anno e celebrerà lo sbarco di entrambi in quell'isola dove da qualche parte è nascosto il tesoro della maturità artistica. Anche per questo i due si divideranno. Max infatti si distaccherà per seguire la sua vocazione da solista. Ma il suo non è certo un addio. Ci sarà tempo e modo per ritrovarsi più avanti da qualche parte, magari con un altro amico. Nel frattempo ci sono altre questioni, altri anfratti da cui tirare fuori un po' di musica. Vuoi che siano poche ore in una bara? Che in una bara in fondo non si sta poi male. Basta conoscersi e sapersi accontentare in questo io, modestamente, sono sempre stato un grande. Perché per vivere a me non serve niente, solo aria. Una canzone sui carcerati, una canzone su chi sconta l'ergastolo ed è costretto a vivere il resto della sua vita in una prigione con il solo intervallo dell'ora d'aria in cui cercare di rinfrescare i polmoni. Un argomento difficile. Chissà quanti cantanti al mondo hanno scritto un pezzo su una questione del genere. Daniele sì, perché lui è così, lui vede una zona d'ombra e ci si butta per cercare di fare chiarezza. E che se ne importa del corretto, dell'incorretto, l'importante è fare un buon lavoro. E Aria, questo è il titolo del brano, lo è, visto che vince due premi a Sanremo, quello della critica e quello dato dalla giuria al miglior testo. Ancora il festival, ancora due riconoscimenti con la R maiuscola. Queste sì che sono certezze. Credo che sia in realtà un dovere, prima di tutto civile, quindi indipendentemente dal mestiere che uno fa, insomma nella vita bisognerebbe comunque credo guardare al mondo intorno con un certo tipo di attenzione e anche di preoccupazione se serve, anche perché poi l'apporto del singolo non è così minimale, spesso diventa fondamentale. Se poi si fa un lavoro in cui si hanno anche delle responsabilità e dei privilegi, responsabili e privilegi vanno considerati, vanno utilizzati nella maniera migliore possibile. Non penso di averlo fatto sempre, probabilmente in qualche caso anche ecceduto magari nel... Troppo materiale, troppi ragionamenti rischiano di grippare il motore. E qui viene fuori l'abilità di Daniele. È nella sapiente alternanza tra l'impegno e il divertismone, infatti, che Silvestri riesce a solcare con destrezza l'oceano che gli si para davanti. E allora ecco che vengono fuori brani sui benzinai, sugli amori che sbocciano in fila alle poste, su un matrimonio con una ragazza brutta, su un giro in motorino. Anche questa in fondo è vita. E poi c'è sempre Roma, fonte inesauribile di personaggi indimenticabili. Io so testardo e non mi ferma niente, vado sempre avanti fino al mio traguardo indifferente e non mi importa niente se ritardo. Al di là del contenuto della canzone, il cantante romano non manca mai di attraversare generi e armonie, modi di scrivere e arrangiamenti, per poi mischiarli, fonderli, tirarne fuori qualcosa e piazzarlo nei suoi CD. È il frutto di una ricerca che è cominciata da piccolo, quando imparava la musica ascoltando i dischi degli altri. I primi dischi di Dalla, quelli meno noti, Anidride solforosa, forse ancora prima Terra di Gaibola, che è un disco incredibile, sono una serie di esercizi di invenzione pura, di fantasia completamente libera. Fantasia, invenzione, sono tutti sostantivi che attraggono l'attenzione di Daniele, scortandolo nel suo giro attraverso i pendii e i saliscendi che popolano la sua testa. In tasca, tutti quei piccoli utensili di cui non riesce proprio a farne a meno. Allitterazioni, assonanze, giri di parole. Sembrano il kit perfetto del buon enigmista, ma in mano a Daniele diventano strumenti con cui costruire e sonorizzare le piccole divertenti storie che prendono vita sul suo pentagramma. Rapporto con Sanremo faticosissimo per certi versi, però fatto anche di una certa dose di gratitudine da parte mia, perché a quel palco devo sicuramente molto, soprattutto se penso al premio Tenco con cui ho iniziato, che anche se è l'opposto forse per certi versi al Festival di Sanremo, però avviene nello stesso luogo fisico. Volete un'altra prova? Eccola qua, Sanremo 2002. Daniele si presenta in gara e tutti si attendono la solita canzone impegnata, dura, ingombrante. Sul premio Tenco si allunga presto l'ombra della sua mano. E lui che cosa fa? se ne esce con un brano pop, una specie di tormentone che però non ha l'aria della solita operazione commerciale, ma è godibile, ballabile e ben impacchettata armonicamente. Finito qui? Ma che! Nella serata finale Silvestri sale sul palco insieme all'attore Fabio Ferri, che si scatena in un indimenticabile balletto tra gli applausi del pubblico presente. Il risultato sarà un ottavo posto, perché Sanremo è Sanremo, ma la canzone spopolerà nelle radio e nelle preferenze degli ascoltatori, scalando le classifiche nazionali. E ora che si fa? Salirò, salirò fra le rose di questo giardino. Salirò, salirò fino a quando sarò solamente un punto lontano. I magnifici destini. L'apparanza è una danza che si balla nella latitanza, con prudenza, eleganza e con un lento movimento de panza. L'apparanza è una danza che si balla nella latitanza, con prudenza, eleganza e con un lento movimento de panza. Non è più come prima da un pezzo per Daniele Silvestri, il protagonista della nostra puntata di oggi. Ormai è un uomo alle prese con il proprio personalissimo percorso. Quando passano gli anni si tende a diventare un po' più seri, meno disponibili allo scherzo. Ma per il nostro magnifico destino di oggi non è così. Daniele negli anni non perde la sua ironia particolarissima con cui riesce a farci sorridere mentre parla di argomenti tutt'altro che leggeri, come nella canzone che abbiamo appena ascoltato. Daniele è così fin dall'inizio, diverte e allo stesso tempo fa riflettere. E il suo modo di lavorare cresce, si affina e lo costringe a qualche riflessione in più. Guarda, ce ne sono tante di idee che mi frullano per la testa, appunto. Cioè, ho molta voglia di fare una cosa in teatro, anche perché, insomma, il teatro è il luogo originario, quello in cui ho iniziato a muovere i primi passi, ed è un posto in cui ogni tanto, proprio per una questione anche di salute mentale, mi serve tornare. E quindi ho voglia di fare, però vorrei fare una cosa fatta apposta, pensata apposta, che sia abbastanza unica e che possa succedere solo in quel momento e in quelle esibizioni lì. Continuerà così Daniele a seguire intuizioni e ragionamenti, luoghi e persone. E quindi al mestiere vero e proprio si alterneranno collaborazioni scritte e cantate, l'immancabile teatro e il cinema, il serio e il faceto. E dei figli? L'obiettivo forse non è così nitido come si potrebbe pensare, perché nella musica è difficile delineare il confine tra ciò che si vorrebbe essere e ciò che gli altri vorrebbero da te. Ma è pur vero che non sempre è necessario un traguardo. A volte bastano un molo, una nave, un orizzonte e la voglia di partire. Intanto nel tempo che resta sei qui accanto, è già molto diversa e bellissima. Sei bellissima. Lo sbarco di Daniele avviene nel 2011 al settimo album, dopo altre fatiche sia live che in studio. Si chiama Scotch, con i puntini dopo ogni lettera, ed è il disco che più di altri consente di chiudere le virgolette intorno al suo nome. Non che Silvestri dia troppo credito a queste cose. Lui è abbastanza già critico su se stesso da non avere bisogno di ulteriori giudizi. In Scotch, Daniele butta dentro tutto ciò che ha raccolto durante gli anni, lasciando emergere il solito, impeccabile lavoro. Ma è tutta l'atmosfera che lo circonda, musicale e non, a renderlo particolare. A cominciare dal momento difficile che vive l'Italia, su cui Daniele irrompe con le sue riflessioni con la consueta decisione. Sono tantissime poi le collaborazioni, a volte cantate, a volte parlate, a volte solo accennate. E le rime, le assonanze che non mancano mai. Più in generale Daniele riesce a ricreare la magia del dado, utilizzando anche in questo caso la presa diretta per la registrazione dei pezzi e aggiungendoci quel pizzico di consapevolezza che lo porta di diritto nel girone dei grandi cantautori. Sempre che a lui questo discorso interessi. Ma credo che sia semplicemente un dovere quello di cercare di averla qualcosa da dire, se no meglio stare zitti, tant'è vero che mi prendo dei tempi abbastanza lunghi tra un disco e l'altro, ma questo perché, un po' perché sicuramente invecchiando si diventa anche più, almeno nel mio caso è così, non ci si accontenta facilmente, quindi poi non ci metto tanto per quello, perché butto un sacco delle cose che scrivo, però continuo a sentire come, ripeto, un dovere oltre che una necessità personale, quella di provare almeno a essere, non dico originali, ma almeno avere un senso. Vorresti più tempo, ma tempo ne hai avuto già. Non vedi che intanto aumenta soltanto l'età. L'ha fatto anche stavolta, se per caso ve lo stavate chiedendo. Così come in passato, anche nella sua ultima fatica, Daniele non resiste alla tentazione di metterci lo zampino del locale di Vicolo del Fico. E così, dopo Gazzè, questa volta è il turno di Nicolo Fabi, anche lui un vecchio amico, anche lui cresciuto musicalmente in quel posto, dopo aver passato l'infanzia a suonare con la batteria i pezzi dei Police. Nicolo ha condiviso con Daniele, Max e tutti gli altri gli stessi sogni, le stesse speranze, gli stessi primi successi. Poi però la vita gli ha voluto scagliare contro uno dei suoi tiri mancini e gli ha portato via una figlia. C'è voluto del tempo, ci sono voluti gli amici, ma alla fine Nicolò è tornato. Non prima però di avere tributato il giusto omaggio alla piccola Lulu con un concerto a Casale sul Treia, a 30 chilometri da Roma, immerso in un abbraccio collettivo. Tra gli altri, ad allargare le braccia c'era anche Silvestri, naturalmente. Uno sguardo, un sorriso e si può ricominciare. Chi non conosce dignità non può nemmeno percepire umiliazione, e se qualcuno mai te lo rinfaccerà, non gli rispondere, sorridigli sognone. Quello che è successo in realtà è che poi nella pratica siamo stati molto di più accostati nelle rassegne stampa, piuttosto che poi musica fatta realmente insieme. Negli ultimi 15 anni, forse proprio per sfuggire a quel luogo comune che ogni volta ci vedeva uno dopo l'altro, no, Silvestri, Fabio, un po' per timore abbiamo un po' evitato. Lo sospettavamo. Anche Nicolò con quel vizio dell'umiltà, della sostanza, del fermo ma deciso. Deve essere un marchio del locale quello di sfornare persone così simili. Ora la sfida è lanciata, ed è lanciata con qualche anno in più sulle spalle, molta musica e vecchi amici. E in mezzo al mare di incertezza che ci circonda, Daniele, a modo suo, è diventato un punto fermo. Fermo sulle sue posizioni anche, ma sempre pronto a muoversi ogni volta che la musica può contribuire a fornire ispirazione e a stemperare la tensione. Il tempo di una canzone, una risata, per poi tornare a fare sul serio. Secondo te l'intellettuale oggi può essere un portatore di verità o comunque di rivoluzione in tempi di crisi? Non so se può esserlo, credo che debba provare ad esserlo. Probabilmente non può farlo da solo, deve sperare anche che il mondo intorno abbia voglia di entrare nella profondità delle cose. C'è da dire che in questo momento, non è un ragionamento solo politico, è più che altro realistico, è difficile non sentire che c'è bisogno come minimo di un po' di serietà. Quando ti trovi di fronte a questa incapacità, anche l'incapacità di raccontarti un futuro possibile, ma almeno un futuro, e invece si è alle prese solo con l'oggi o con l'emergenza e nient'altro occupa la scena politica e quindi alla fine anche quella intellettuale in un certo senso, c'è il dovere da parte di tutti.